Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Continuiamo il viaggio nell'Italia oltre il nucleare intrapreso ieri. Ieri abbiamo capito che un ambizioso programma geotermico potrebbe forse sostituire, addirittura superare, quello nucleare, rispondendo alla stessa esigenza, quella di avere una fonte continua e costante di energia elettrica. Ma oltre la metà dei nostri consumi di energia, importata per l'85%, non sono elettrici, bensì termici. Calore per scaldare le case e le imprese degli italiani e calore per i processi industriali. Aggredire questo settore vuol dire aggredire lo zoccolo duro delle importazioni di energia, soprattutto di gas. D'altra parte, che le rinnovabili termiche abbiano un ruolo determinante lo dice anche il PNARE, il Piano Nazionale di Azione per le Energie Rinnovabili, che attribuisce loro il 44% del raggiungimento dell'obiettivo italiano al 2020 contro il 36% delle elettriche. Parliamo in tutto di 10,5 megatep termici, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio da realizzare grazie a pannelli solari termici, quelli per l'acqua calda, alle biomasse per il riscaldamento, alle pompe di calore, delle particolari macchine frigorifere che consentono di rubare calore all'ambiente, di trasferirlo dentro le abitazioni e gli uffici riscaldandoli. E infine parliamo di cogenerazione e di usi diretti della geotermia, quindi delle acque termali. Recentemente, nel corso della seconda conferenza nazionale sulle rinnovabili termiche organizzata dall'Associazione Amici della Terra, è emerso un quadro molto sorprendente per quanto riguarda queste fonti. Lo abbiamo riassunto in una scheda. Sentiamo. Secondo il Piano Nazionale di Azione delle Energie Rinnovabili, nel 2020 l'Italia dovrà produrre 10,5 megatep grazie alle rinnovabili termiche contro gli 8,5 megatep del comparto elettrico. Secondo le stime ufficiali, che però non tengono conto dell'utilizzo diffuso di legna da ardere, nel 2010 in Italia le rinnovabili termiche produrranno 3,4 megatep, circa un terzo dell'obiettivo finale. Da qui al 2020 si tratterebbe quindi di aggiungere poco più di 7 megatep. Se verrà reso effettivo l'obbligo di installare una quota di rinnovabili sugli edifici nuovi e considerando che molte di queste fonti non hanno bisogno di incentivi, come le stufe acquistate senza contributo statale, le associazioni di categoria stimano che l'obiettivo europeo possa essere raggiunto con un contributo statale di 7 miliardi spalmati su 20 anni, la stessa cifra che il quarto conto energia assegna in un solo anno al fotovoltaico. Secondo gli operatori del settore, tuttavia, se conteggiassimo anche l'ampia quota sommersa legata soprattutto agli usi domestici della biomassa, come hanno fatto altri paesi, scopriremmo che le rinnovabili termiche contribuiscono già adesso con 9,5 megatep al fabbisogno energetico italiano, solo un megatep in meno degli obiettivi al 2020. I 7 miliardi di incentivi ci porterebbero perciò verso quota 16 megatep, ben oltre l'obiettivo. Il dato che emerge con più forza da questi numeri è come le rinnovabili termiche consentano di aumentare rapidamente la nostra quota di energia rinnovabile a costi largamente inferiori rispetto a quelli delle rinnovabili elettriche, che costano da 2 a 4 volte tanto a parità di energia prodotta e che inoltre generano meno posti di lavoro, 1,3 per ogni milione di euro di incentivi, sempre se parliamo di fotovoltaico, contro gli 85 delle termiche. Insomma, il quadro è chiaro. Le rinnovabili elettriche sono importanti ed è assolutamente necessario svilupparle, ma se si vogliono aggredire le importazioni di gas e quindi la dipendenza italiana, conviene in termini di costi-benefici puntare maggiormente sulle rinnovabili termiche. D'altronde, il decreto 28/2011 prevede l'attivazione di un conto energia termico, quindi di un sistema analogo a quello del fotovoltaico che remunera ogni kilowattora di calore prodotto. Ora bisognerà procedere con i decreti attuativi attesi dal settore con grande impazienza perché definiranno il quadro operativo dei prossimi anni. Gli incentivi richiesti vanno dai 2-3 centesimi a kilowattora termico delle pompe di calore ai 13 che Assolterm propone per i pannelli solari. Un raffronto diretto con le fonti elettriche, va detto, non sarebbe corretto perché l'energia elettrica è decisamente più pregiata, ma parliamo indubbiamente di benefici molto elevati a fronte di costi contenuti, senza contare il fatto che l'industria italiana italiana è molto più forte su questo segmento che in quello elettrico e che quindi una spinta alle termiche costituirebbe indubbiamente un forte elemento di politica industriale. Chiudiamo con un focus sulla biomassa forestale che merita davvero un discorso a parte, anche perché sta emergendo in questo settore una situazione addirittura paradossale. Ce ne parla Marino Berton, presidente di AIEL, l'associazione italiana Energia dal Legno, che ho intervistato poco fa. Ascoltate. C'è un pericolo di sboscamento in Italia? Assolutamente no, io direi che c'è il contrario. Abbiamo il problema di un patrimonio forestale che è in stato di semi-abbandono. Nel dopoguerra avevamo 5 milioni di ettari, oggi ne abbiamo 10 milioni di ettari, abbiamo raddoppiato la superficie, ma è una superficie che ha bisogno di essere gestita, manutentata. Secondo i dati ufficiali, la biomassa oggi contribuirebbe per 0,5 megatep al fabbisogno energetico italiano, però al conteggio manca la legna da ardere, quella che insomma tanti italiani bruciano anche male spesso, però nel camino, nella stufa. Come cambia questa stima se teniamo conto anche di questa legna da ardere? Se aggiungessimo, come è giusto fare, questa importante quota, possiamo tranquillamente arrivare attorno ai 6,7 milioni di tonnellate equivalenti petrolio, quindi un dato assolutamente molto importante. 12-13 volte superiore a quello stimato, diciamo, a quello ufficiale. Abbiamo visto che non si può parlare certo di rischio di sboscamento. Allora, immaginiamo di mettere in atto un prelievo sostenibile ma più spinto, come per esempio accade in Austria, che certamente non può essere accusata di scarsa attenzione all'ambiente. Che contributo potremmo aspettarci a questo punto dalla biomassa legnosa nel 2020, nel 2030? Guardi, i prelievi, appunto, che dicevo prima, oggi del 30% sull'accrescimento, possono anche tranquillamente essere raddoppiati, a condizione però, ovviamente nel rispetto delle regole della gestione forestale sostenibile, e anche alla condizione di poter avere delle infrastrutture, delle piste, delle strade forestali che consentano agevolmente di utilizzare una meccanizzazione forestale assolutamente necessaria per abbattere i costi dell'operazione. Anche per stasera è tutto, domani continuiamo il nostro viaggio nell'Italia senza nucleare, parleremo del trend delle rinnovabili più note, fotovoltaico, eolico e anche biocombustibili. Buona serata.